Biblioteca è qui, vi ricordo, nella sua sede provvisoria, mista di trasferirsi nel polo bibliotecario che sarà pronto in futuro. La biblioteca si occupa di conservazione e raccolta di materiale di attinenza locale ed è proprio in questo ambito che accogliamo queste iniziative e ogni lunedì, a partire da oggi, per tutto l'autunno e l'inverno, quasi ogni lunedì, verrà presentato un testo, si terranno queste presentazioni di libri. Iniziamo appunto oggi con il professor Travaglia. Io vi invito ad iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, l'iscrizione è gratuita, potete trovare il modulo al banco e insieme all'iscrizione potete ovviamente prendere in prestito i nostri libri e riceverete anche informazioni sulle nostre iniziative, quindi se dopo questa iniziativa avete voglia di partecipare alle prossime, verrete informati tramite email o tramite cartolina delle iniziative che ci saranno in futuro. E, intanto velocemente vi dico quali sono le iniziative per i prossimi lunedì, che così eventualmente prendete nota se avete interesse. Lunedì prossimo verrà presentato il libro di Gianluca Rossi, Opzione d'amore. Il 6 ottobre il libro Dolomiti di piombo di Peter Disertori e il 13 Indietro tutta di Vito Mastrolia, che abbiamo anche qui presente. Ora do la parola al professor Travaglia per la presentazione di questo libro. Vi auguro una buona serata. Visto che il professor Travaglia si è commosso a tornare nella sua città a rivedere i vecchi amici, allora dico io due parole di presentazione, anche se non avevo idea di doverlo fare. Noi ci siamo conosciuti molti anni fa come colleghi e facenti parte del circolo Amici della Poesia, che riuniva i poeti di quel tempo, e poi si collaborava alle due riviste dell'epoca, Adige Panorama e Regioni Panorama, e già allora si fece conoscere per la sua poesia più che per la narrativa, ed era una poesia molto regionale, direi, aveva un suo taglio prettamente individuale e giocava molto sulle immagini, sui sensi ambigui. Era una poesia di pensiero soprattutto, ma che si avvaleva anche molto delle immagini per renderla più accessibile. Poi si è dato alla narrativa, ha scritto dei libri con lo pseudonimo, perché la sua idea era: io mi presento con lo pseudonimo, quindi se valgo qualcosa devono riconoscermi anche senza conoscermi personalmente. E allora molti leggevano questi libri ma non sapevano chi li aveva scritti, in quanto usava uno pseudonimo. Finalmente è uscito lo scoperto da quando è tornato nella sua città natale, vero, a Jesi, o vicino a Jesi. Sì, Fabriano. E allora io mi sono visto recapitare alcuni libri col suo vero nome e cognome, dandolo Travaglia: testi di narrativa, romanzi, racconti e testi di poesia. Io mi sono interessato soprattutto, almeno allora, ultimamente non più, alla sua poesia, ed ebbi modo di recensirla anche su varie riviste, e cercando di mettere in luce la novità di questa poesia. Non sempre era comprensibile, vero? Perché la poesia, quando è difficile, non sempre è comunicativa, quindi c'erano delle asprezze, delle espressioni che solo lui poteva spiegare in certo senso. Però nel complesso, insomma, è una poesia veramente amabile. Ecco, ultimamente ho visto che ha stampato e edito una videocassetta, no, con registrazioni delle poesie da parte di un attore, sarà piacere per me, è vero, risentirle, dato che da parecchi anni non ci vediamo più, insomma, ecco. Comunque la nostra amicizia è sempre rimasta viva. E allora, passata l'emozione del caro Dandolo di ritornare a Bolzano, dove ha vissuto per tanti anni come insegnante, ultimamente insegnava al liceo linguistico, si chiama adesso pedagogico, l'istituto magistrale, col preside Mastroia, che allora era preside dell'istituto magistrale, poi passato al liceo classico, e dirigeva un centro sociale intitolato Mesocops, sì. Anche un titolo un po' strano, perché amava sempre le stranezze, il nostro Dandolo. Concettorio familiare, no? Ed era questo centro sociale, uno dei primi, vero, Mesocops, che continua la sua attività. Poi si è ritirato, è scomparso e è tornato nella sua terra, dove mi sembra che svolga attività sociale, di organizzazione, in quanto la sua passione è quella sempre di aggregare i giovani, aggregare le persone, vero, in attività sociali utili, no? E quindi ha dato la possibilità di esaudire un suo vecchio desiderio. Ecco, ti ringrazio. Piacere. Grazie. Adesso pure. Mi hai dato l'aire, come si dice, l'aire. L'input. Sì. Vedete, questo è stato conservato qui perché è l'ultimo che ho potuto recuperare, perché l'aveva mia madre, che poi non c'è più. Ed è, sai, ciò che ti manca, il primo che io ho stampato, di quello cui tu parlavi, mm-hmm, che è un gruppo di poesie, eccetera. Adesso, siccome è stato così gentile, vi leggo cosa ha scritto di me a proposito di questo lavoro, che è del 75, pensate quanti anni sono. Pur non essendo presente nell'antologia Poeti in Alto Adige, fa parte del gruppo BZ, l'attivissimo socio e presidente del Circolo Amici della Poesia di Bolzano, Dandolo Travaglia. Poeta modernissimo nella concezione della poesia, non aliena da suggestioni sperimentali sul piano lessicale e sintattico, e nella vigile attenzione ai problemi più scottanti che travagliano l'uomo d'oggi. La sua poesia oscilla tra una sofferta esperienza della vita e l'arguzia intellettuale, il gioco della mente che si compiace amaramente di riscontrare i paradossi e le contraddizioni dell'esistere e lo scadimento dei valori nei quali il poeta crede con una fede da apostolo. La lettura dei suoi limati versi impegna la mente che cerca di dipanarne il filo e il senso ascoso, giacché la frequenza di frasi assiomatiche, che sono il risultato di un lungo meditare, ma di cui si tacciono le premesse, accrescono i punti di forza della costruzione logico-concettuale che necessitano di una loro autonoma comprensione. Al di sotto vi scorre un senso tra lo sconsolato e il sorridente della vita, una dulcis amaritias che contrassegna la tipicità del tono. Quello che ha detto prima, l'avete sentito? Dopo quanti anni? Parecchi. 75, questo era il 75. 75, sì. Passati, insomma, 40 anni. Okay. Naturalmente questo è in ristampa, perché questa è l'unica che ho, perché io rileggendole trovo proprio che avevano un altro sapore. La prima poesia è intitolata Dolomiti, quindi ok, questo è il tuo onore. Grazie. Okay. E adesso passiamo all'altra. Se volete potete attingere in questa biblioteca, perché mi sono informato, perché mi chiederete: ma da dove è nata questa idea di questo libro? In effetti siamo negli anni 80 ed è nata da un libro che ebbe molto scalpore in senso positivo, ed è L'Italiana di Zoderer, quindi penso che qualcuno la conoscerà, e aveva una sua posizione particolare. A questo punto, così, di rivizzo, mi è venuto, io voglio descrivere qualcosa di diverso che che sia un'italiana, ma non quella descritta lì. Questa è stata la prima idea. Io prego la nostra visto cara che siamo Emma. In un tema di ricordi, posso dirlo che sono stata una studentessa del professor Travaglia alle magistrali. Ho finito nell'82, quindi sono passati un po' di anni. Ecco, allora, nell'incipit di questo libro c'è quasi tutto quello che poi si svolgerà. Bene, posso... L'acqua dell'Isarco le lambiva gli arti inferiori fino ai polpacci o fino alle caviglie, a seconda dell'apporto incostante del torrente Talvera. A lei però piaceva vedere il fondo e sguazzare solo con le piante dei piedi per sognare senza limiti di fantasia. Dall'altra parte la spiaggia dei poveri, che lei neppure guardava. Aveva scelto la baracca dei Barboni sulla sponda sinistra, perché era riparata dagli sguardi della gente. Alle sue spalle si ergeva una parete di cemento e la strada provinciale era sopraelevata di diversi metri. Quando il fiume era in piena, rovesciava il suo corpo lasciandolo tutto disteso sulla sponda sassosa e le braccia giù a pescare nell'acqua torbida per le piogge recenti e canticchiava le sue nenie, tristi e consolatrici. Non le importava affatto di essere sola al mondo ormai. La morte del suo padre putativo le aveva tolto un valido sostegno per le necessità quotidiane, però l'aveva liberata di quel peso divenuto insopportabile di dover servire incondizionatamente, essere comandata in ogni ora del giorno per le faccende più varie ed umilianti. L'avevano trovato secco sul ciglio della strada. Lei non c'era. Per caso ne sentì parlare al mercato e non se ne turbò minimamente. Anzi, rientrando circospetta nel loro covo, raccolse le sue cose più intime, qualche coperta, qualche pentola, e spostò la sua baracca un po' più a nord, maggiormente nascosta, all'altezza dell'ansa più sinuosa di quel fiume, che ormai considerava il suo vero padre. Di sua madre non seppe mai nulla e non volle saperne. E qui c'è tutta la trama in questo incipit. È chiaro che adesso vi dico poche cose perché vorrei sentire la vostra opinione. Molte di voi non l'avranno ancora letto, o non tutto. Comunque, il personaggio è del tutto inventato, non esiste affatto, proprio perché volevo creare l'altra in senso assoluto, in tutti i lati, soprattutto quello dell'autosufficienza, che in genere, se non ci sono genitori, se non ci sono maestri, se non ci sono professori, se non ci sono, no, non cresce, non nasce, non si muove. Per me invece questo, che è del tutto fantasia, man mano che mi veniva fuori risultava del tutto verosimile. Quindi questa ragazza che se ne sta su, cioè il luogo l'avete riconosciuto perché proprio esiste questo luogo, le baracche esistevano, adesso non so a che punto, dall'altra parte del ponte c'erano gli zingari, che adesso non ci sono più. Quindi lei che si porta presso questi zingari, si veste da zingara ma non vuole fare la zingara, e poi comincia a crescere, addirittura va in Germania, per andarci in Germania però va da sola, però si affianca a una coppia, e quindi lì c'è tutta l'avventura della Germania, che è tutta anche lì verosimile. Ci sono i luoghi che esistono, però riportati a quello che era questa ragazza, che ha due nomi, uno gli verrà dato dal giornalista e un altro se l'ha dato lei, Erisinia e Penia, che da una parte vuol dire misera, da un'altra parte coraggiosa, battagliera, no? Ecco. E poi c'è una, io la chiamo un thriller a rovescio, nel senso che il thriller vi dà la soluzione in fondo, invece in questo caso la soluzione è agli inizi, questo stare sulla sponda del fiume, a giocare con le mani, con i piedi, fino a che fa un incontro un po' particolare. Adesso penso che quasi tutti di voi sanno che cos'è la cosa principale che c'è nel libro, è la prima parte. La partenogenesi. Partenogenesi, non tutti sanno che cos'è la partenogenesi. Il nostro professore naturalmente saprà che cos'è la partenogenesi. E quella è un po' la parte un po' non oscura, diciamo curiosa, misteriosa, nel senso che però è reale, cioè può avvenire. L'ho fatta avvenire per lei, anche perché, per questo, perché doveva nascere, crescere tutto da sola. E anche il figlio che avrà nascerà da lei, senza la partecipazione del seme. Del seme sì, ma non del maschio. Beh, sono tante cose da dire attorno, se vogliamo parlarne un po'. Ecco, parla, chi parla è una che non conosco, comunque la Maria. Marina. Dimmi. No, la questione della parte non mi ricordavo più. Non ti ricordavi quella parte lì? No, però dico, poteva venire solamente dalla tua immaginazione, infatti l'hai fatta cadere, no? Sì. Cose più inverosimili, spinto sempre da questa immaginazione sfrenata. A ricerca delle cose particolari, però in effetti che al momento, diciamo, all'inizio del libro può sembrare, oppure dopo, quando man mano si comincia a capire, può sembrare una cosa, forzata, che invece non lo è nell'intero contesto, perché lì è proprio quello che dicevi, che cerchi di dimostrare, perché con questo, diciamo, c'è, di dimostrare che effettivamente l'autonomia e l'autosufficienza e la crescita personale non dipendono interamente da una normalità di estrazione sociale, di condizione familiare, no? Ma dipendono magari da altri aspetti, da altre... la ricerca e la spinta per ogni individuo, per ogni lettore, cercare dentro di sé qualche cosa, la ricerca della propria identità, mutuando insomma da quello che c'è all'esterno. Sì, infatti lei... E caratteristica, diciamo, della tua... narrative, è proprio sempre questa cosa didattica, no? Che leggo sempre, che alla fine vuoi insegnare qualche cosa. Dare agli altri. Perché dare agli altri io mi arricchisco. Sì, sì. Col dare mi arricchisco. Chiaramente. Certo. E anche la ricerca di questo viaggio in Germania, io sono stata forse più critica di tutti gli altri, cioè sono appunto conoscendoti, conosco come ragioni, anche da ricerca questo viaggio in Germania, che poi diciamo tutti gli avvenimenti, i luoghi, sono tutti diciamo descritti attraverso i tuoi ricordi, le tue esperienze. Però di fatto era singolare anche questo affiancamento, questa scelta della protagonista di seguire questa coppia. Coppia, bisogna dire qualche cosa, almeno si può dire svelare qualche segreto, diciamo, perché anche qui, essendo lei priva di ogni guida, per quanto ha avuto questa guida di questo padre, che comunque era una persona culturata, comunque le aveva lasciato una base, e comunque anche la scelta di affiancarsi, anche questa è una scelta singolare. Senza chiedere, vedeva e seguiva. Sì, si vedeva e seguiva, senza farsi notare, segue questa coppia che fa questo viaggio, quindi segue le tappe di questa coppia che viaggia in Germania, perché le dà una certa garanzia, insomma, no? Certo, non aveva mai fatto viaggi. No, mai fatto viaggi, quindi mi spingo a fare un passo che normalmente una persona in sua condizione non avrebbe fatto, ma perché ha spinto se stessa a fare qualcosa di più di quello che teoricamente poteva fare. Certo. Però ha trovato un modo per poter rendersi autonoma con questo quindi risponde al titolo l'altra in questo senso, ho proprio voluto creare l'altra nel senso assoluto, ecco. Hai capito molto bene, sì. Sì, la particolarità, dopo naturalmente chi l'ha letto, se no, la particolarità del preservativo, per esempio, no, è reale, voglio dire, non è che è inventato, succede. perché c'è chi lo usa, adesso lo posso spiegare, c'è chi lo usa che dopo usato ne fa un nodino. Questa è una cosa che non si capisce subito, però dopo usato non fa nodino, poi lo butta. Però nell'acqua lo sperma si mantiene anche 3 ore. Quindi lei l'ha pescato, ecco perché non ha avuto, ecco partendo, cioè non ha avuto contatto con uomini. Però il seme, senza volerlo, e lei non gli ha importato niente, ha detto questo è mio, questo figlio è mio. Sì, è una ragazza. Cioè il personaggio di questa ragazza è completamente appunto autonoma e coraggiosa, che sceglie anche di mettere un buffi. Non si dispera, anzi, la trova uno stimolo di vita, una creazione propria, quindi. Un altro filone, un altro discorso. Insomma, no? Nell'ambito. Sì, poi trova un giovane che è comprensivo nei suoi riguardi e finisce bene, no? Nel senso che questo figlio nasce, la famiglia c'è, quindi però questa famiglia se l'è fatta per lei. Poi gli incidenti durante il percorso ce ne sono tanti, che c'è anche un morto, no? Una figura attuale, moderna. Sì, sì, certo, molto moderna. C'è un morto di un personaggio che esiste qui a Bolzano. Naturalmente non posso dire di chi è, però esiste. E aveva quell'istinto che lo portava a lei, al modo suo, si è difesa e purtroppo ci è scappato il morto. Ma lei non si è mai disperata, sempre avanti, sempre avanti. Tutto però non è che io ho visto qualcuna di questo, no, è tutto creato dalla mia mente, perché volevo dire, ecco, volevo insegnare qualcosa attraverso lei, e allora ho potuto inventare. Vuol dire anche che una donna, diciamo che una famiglia non è la famiglia regolare, normale tra virgolette, certo, e che il compito naturale non deriva dalle gambe di sangue, certo, di cosa, ma deriva dall'aspetto, diciamo, dalla posizione educativa e dall'assunzione di responsabilità. Poi erano gli anni Ottanta, oggi già c'è stata una risvolta nella società che è veramente pesante, e l'Ottanta si intravedeva appena. Oggi io ho un consultorio familiare e faccio a Iesi mi hanno chiamato come mediatore familiare, oltre che esperto in sessuologia e rapporto d'educazione, ma su 10 è un consultorio familiare cattolico, su 10 coppie 8 sono praticamente separate, e io faccio l'esempio con tutti: tirate fuori le vostre dita e poi metteteci il fratello, la sorella, l'amico, eccetera eccetera, vostri, e vi rendete conto che ne rimangono sia no 2 che. Quindi c'è una crisi enorme sotto questo punto di vista. C'è una crisi di solitudini che si vanno creando sempre. No, le famiglie che non esistono più, la famiglia, lui, lei, figli, non esiste più. Però, e io sto parlando di un consultorio cattolico, sono tante 8 su 10. Ma la causa conto? Principale di questa spinta alla disgregazione è quale? Allora, la società è cambiata. Ecco il perché negli anni Ottanta si intravedeva, ma adesso proprio si vede, proprio la società è cambiata, perché allora cosa conta? L'apparire, sicuro, e chi comanda è l'economia. E dietro a queste due cose non esiste più, il bambino non cresce nel seno della famiglia, perché parlo da educatore. Oggi la pedagogia, diciamo, mondiale ha un altro indirizzo, non sono più i genitori, non sono più i maestri che educano, sono i coetanei che educano, e questo è vero, e questo è vero. Poi c'è una grande maestra, la televisione, e da lì non si sfugge. Vi porto solo un esempio perché è autentico. In una famiglia sono tutti a tavola, una bambina ad un certo punto prende il coltello e lo lancia contro la madre, e tutti si sono meravigliati, ha detto ma lo fanno anche in televisione. non c'è altro, non ci sono commenti, capito? Poi guarda, voi seguite, no, tutto quello che succede nel mondo. E io vi dico questa, poi la smetto. Ho sempre sognato di lasciare la società migliore di come l'ho trovata. Non mi è successo. Tenga duro che ce la facciamo. Ma forse ci sarà un tenga duro, no, forse ci sarà un ritorno, perché... No, però aggiungo che io so che cos'è la crisi. Però nella crisi ho sempre veduto due lati. Può andare male, ma può andare anche meglio, non è detto. La crisi non è una cosa per sé male. No, però dalla crisi può venire fuori anche il meglio. Appunto. Speriamo. Vorrei tornare al libro, posso per un po'? Certo, possiamo qui per questa. Ecco, vorrei chiedere questo. L'ambientazione a Bolzano, comunque qui adesso all'inizio, insomma, nell'arco dell'Isarco, ecco, è perché, visto che è tutto frutto di fantasia, no? Ha detto, sì. È perché voleva fare un omaggio alla città dalla quale se n'è andato per, cioè, già da un po' di tempo. Allora, oppure... dentro, non trovate dentro, ci sono delle favole? Dentro ci sono delle favole che ha inventato, no? Però sono del tutto didattico-pedagogiche. E ci sono i famosi gabbiani dell'Isarco, che esistono, cioè i gabbiani sono nel mare, invece questi sono nell'Isarco, lì spiego, perché sono venuti, non hanno fatto in tempo a volare via e sono rimasti qui. Infatti sono neri sotto. Ecco. Quindi l'Isarco, io l'ho sempre, e poi dovevo dare un padre a questa ragazza, no? E lei, e la baracca esiste davvero, là. Adesso non so, però esisteva. No, ma intendo dire, visto che lei è stata per tanto tempo, volevo fare un... Certo, era un omaggio, cioè, oppure certo. Perché la ispirava di più questo luogo anziché quello dove sta adesso? No, perché anche lì non è che non certo, ci saranno anche, delle... Anche come le favole che ho descritto sono tutte ambientate qui, capito? È un po' un omaggio. Quindi, è un omaggio alla città. Città. Però siamo negli anni Ottanta. È un modo di far confluire ricordi. Svariati che si congiungono tutti lì. Ricordi, osservazioni, perché... Come ad esempio dovrà uscire adesso un libro che è ambientato invece a Iesi, tutt'altra cosa. Sempre lì nel dopoguerra, partigiani. Io ho vissuto, però il mio lavoro letterario è così, è avvenuto. Una volta scrivevo molto tutto a mano, poi la macchina da scrivere. E poi quando, nel momento in cui me ne sono andato giù, ho cominciato a raccogliere tutto e poi ho pubblicato con molta, in distanza di 20, 30, 40 anni. Quelli sono i principali che dopo vi potete dare uno sguardo. Ho scritto 46 libri, ma quelli sono i principali. E vanno per ordine, il maggiorenne, prima del maggiorenne viene questo è poesia, il maggiorenne è il primo romanzo, poi viene... diamo la destra alla signora, in questo che sono poesie, la destra si dà alla signora, allora le poesie di destra sono dedicate a quella che è stata mia moglie. L'altro invece è filosofia. Poi c'è Tre ragazzi e un segreto, ambientato tutto a Fabriano. Poi c'è L'attimo, si riferisce a quel fatto dove la donna lì che guidava il catamarano, no? Anche questa è un'altra donna sola, no? La scritta, sì. E dopo è stata uccisa. E a me è venuto l'idea, che cosa succede quando, perché gli è andata un'accettata in testa, no? C'è un momento in cui uno passa dalla vita alla morte, no? Che cosa pensa, no? E allora in quell'attimo io ci ho messo dentro tutta la vita col padre, tutto qua. Questo è l'attimo. Poi conoscere il dolore è una filosofia abbastanza profonda. Ripeto, l'ha un po' accennato Silvano, che la poesia per me non è che bello stare in cima al monte, la rosa che si schiude, posso cominciare così, ma il mio scopo è che chi legge deve tirar fuori qualcosa da questa poesia, però ci deve mettere qualcosa di suo. Ecco perché, non è ermetismo però, io non lo chiamo ermetismo, però tu l'hai definito bene, certo. Cerco di coinvolgere ognuno dei lettori, infatti io sento dire da più di uno che mi dicono l'ho letto una, due, tre volte, però bisogna leggerla, insomma, ecco. Dopo c'è Nebbia, che sono poesie dedicate tutte a un'amica. Non si sa chi è. Non ce lo vuol dire. Eccola là. È Maria Grazia, allora. Sì. E poi c'è l'ultimo, che voi vedete là ancora sviluppato, di cui avete visto qualcosa, che è insomma, un attore legge le mie poesie. Poi ci siete voi. Adesso leggeremo l'ultimo. Ecco l'ultimo. Io ne ho 4 o 5, ecco, se vogliamo leggere qualche altra cosa, qualcuno ne trovate già da Cappelli, no? Che poi c'è il sito, ha detto Cappelli, se ne ha bisogno basta che chieda alla casa editrice, perché io non ne ho più. Ho portato tutti quelli che avevo. Se vogliamo leggere qualche altra cosa, romanzo, cioè, suggerite magari una parte voi, suggerite chi l'ha letto. C'era quello alla pagina 114, qual era? 119 o 114? No, guardando... Aspetta che... Allora, avevo già preparato uno schema, ma... Allora vediamo 119. Vuoi leggere tu? No, leggere 119. Io, Emma. 119? Sì. Quindi andiamo dall'incipit, andiamo verso il fondo, via. Fammi un po' vedere. Questo qui. Questo così ti può seguire bene la Luciana. Sì, appunto, perché poi andiamo proprio psicoprofilati. Allora, descrivo tutto il consultorio io, perché lei si è presentata, voleva fare il corso di preparazione al parto, perché conosceva, tanto dice non mi chiedono mica, mi chiedono il nome. Quando lei ha saputo che era positivo, allora è andata a fare il corso di preparazione al parto. Leggi quella parte. Stavo pensando anche l'altro, sì. Quando la Silvia ti ha chiesto come mai Bolzano, così sì. Sono stati importantissimi per te, certo. Tu hai dedicato al di là della scuola tantissimo al consultorio, e non solo alle persone, agli utenti che venivano, ma anche a noi che eravamo colleghi suoi, che erano un po' più giovani, un po' più inesperti, ma quello che ci ha trasmesso era proprio l'amore per quello che stava facendo, che è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, non è che la impari sui libri, no? Anche gli studenti che comunque... Ecco, io non l'ho conosciuto, un professore che è rimasto nella storia di noi in generazioni. Io l'ho conosciuto prima come professore, poi come padre della mia cara amica. Io invece l'ho avuto come, con lei come direttore, in realtà per tanti anni, e devo dire che mi ha insegnato tantissimo, cioè quello mi vengono in mente perché l'ho sentita anche ieri queste parole della madre Teresa di Calcutta che dice per curare l'arte prima devi imparare ad amarla, che credo che lui facesse proprio questo. E diciamo che agli albori della professione per me è molto difficile, perché ero troppo preoccupata alla cura e poco all'amore, invece devo dire che lavorando con lui questo c'è stato sempre. E penso che in questo libro, proprio non vorrei peccare, non l'ho letto il libro, certo, non lo sì. so da tua figlia un po', immagino, però secondo me, questo diciamo magari è una deformazione professionale, no? Però ci sia anche tanto proprio questo messaggio di speranza, no? E anche questa partenogenesi di cui tu parli, che è un po' come questa ragazza che poi alla fine mette un po' al mondo se stessa, certo, capito? Sì, sì. Che è un po' questa cosa qui, al di là della storia e sul piano reale, diciamo, mm-hmm. Però è proprio un percorso che riguarda la persona, mm-hmm. No? Perché parliamo poi della crisi della famiglia, delle coppie, sai, anch'io ci continuo a lavorare tutto il giorno e non ne posso più. Infatti adesso mi rifiuto di prendere copie in crisi e dico basta. Dopo 25 anni che lavoro per basta, non ne posso più. Però il messaggio che secondo me tu mandi, anche sì, che ripeto, non ho letto il libro, ma da quello che mi sembra che voi lo abbiate letto, che sia un po' anche sempre un messaggio comunque di speranza, che secondo me è il messaggio che dobbiamo mandare ai nostri figli, non a noi che ci siamo già creati, che abbiamo già la strada ben tagliata, ma alla nostra gioventù. Certo. I nostri ragazzi che hanno 15 anni, 20 anni, 30 anni che ha, e si trovano un mondo veramente senza punti di riferimento. La terza dove tu accendi questa televisione, questa madre televisione che è una madre distruttiva diventata, perché i messaggi che ti mandano sono estremamente estremamente sconvolgenti. Addirittura ha vinto il nostro figlio alla violenza, diventa quasi una cosa, no? Alla fine con questo libro mandi ancora un messaggio, ce la puoi fare. Sì, sì, date lo scopo. Ce la puoi fare, ne vieni fuori, anche se parli con pochi strumenti dall'esterno, ma gli strumenti che hai dentro sono così tanti che tu riesci comunque a trovare la strada. E poi li colloco in tutte le parti della società, in modo che venga sia evidente per leggere da. Non l'ho letto proprio. L'ha interpretato molto bene senza conoscerlo, perché conoscevi me. Confermo tutto quello che dice lei. Bene. Frequentare il corso psicoprofilattico di preparazione al parto con il metodo RAT sarebbe stato facile, opportuno e non comportava rischi. Là dentro si era semplicemente una gestante, chiamata per nome. Per saperne di più andò alla presentazione dell'equipe, osservò attentamente l'ambiente, ascoltò tutti e si fece un giudizio rapido di ognuno. Lo psicologo, giovane, avvenente, un po' sofisticato, presentava una calma solo apparente. Il suo aiuto, che poi doveva essere sua moglie, anch'essa giovane, spigliata, intraprendente, presentava una dolcezza, pure lei, del tutto apparente. Adesso naturalmente Luciana li riconosce, però voi no. Avanti. Il ginecologo, non più giovane, schivo, scocciato dalla seduta inutile, mostrava una sicurezza apparente. L'ostetrica, attempata, grossolana, appariscente nei tratti esterni, aveva sicurezze di vedute e presa di contatto rapido, concreta della realtà. Molto simpatico, affabile il pediatra, giovane, accondiscendente alle richieste. A portata, capace, anche se silenziosa, giudicò l'assistente sociale, una donnina piccola, non giovane e non vecchia, con nello sguardo tanta sofferenza di esperienze passate e recenti, che però si lasciava tutte dentro, concedendo agli astanti il sorriso sincero della comprensione, arma efficace del suo mestiere. Chi pure non parlò, ma le lasciò lo stesso giudizio in animo, quello del primo incontro, era stato il direttore, che acconsentiva a lasciare scorrere ogni intervento, senza intromettersi, a differenza della solita factotum, scusate, bacchettona. L'espressione l'aveva recuperata da suo padre, che così definiva le donne che si davano da fare senza altri scopi in alcune istituzioni assistenziali cattoliche, la quale, dimenandosi molto euforicamente, dimostrava di avere tanta voglia di agire e di ben figurare, ma in sostanza non aveva stoffa pregiata da vendere a nessuno. Erisimia tornò via insoddisfatta, e non perché non avesse apprezzato l'iniziativa, piuttosto perché si sentì superiore a quell'equipe. Innanzitutto un facile giudizio che le era scaturito senza sforzi, come se fosse una supervisore, e poi soprattutto la riflessione acuta. Perché mai non era comparsa in lei la meraviglia del suo nuovo stato? Perché stava prendendo ogni cosa con la flemma di un'incallita esperta? Uscendo dall'ospedale e andando a leggere, mentre rientrava in ACT, quell'esito che doveva essere il primo lasciapassare per il ginecologo, decise che quel figlio era soltanto suo, e nessuno doveva metterci le mani se non lei. Nessun maschio l'aveva toccata prima, nel senso e nel modo di iniettare il seme, e nessuno doveva sfiorarla dopo. Avrebbe fatto tutto di propria iniziativa, come del resto la natura insegna e lascia fare. come avevano fatto per millenni tante madri e come in certe plaghe della terra sapeva che facevano, o meglio lasciavano fare, in solitudine. Del resto aveva il libro, scritto apposta per agevolare le gestanti. S'era seduta sulla branda e lo stava sfogliando. A tratti tornava a rimirarsi quella copertina che tanto l'aveva affascinata e quello sguardo enigmatico, sarcastico dell'uomo sulla destra in fondo, sarcastico dell'uomo sulla destra in fondo, era il solo che riuscisse a turbarla, ad obbligarla a pensare all'insolita ragione che l'aveva condotta al nuovo stato, che in fondo le piaceva, un senso nuovo di tutto il suo corpo, una calma benefica in tutta la psiche e un'attesa docile, in crescendo, che le dava uno scopo per diversi mesi e più ancora per la vita futura. Doveva prepararsi con coscienza e con scrupolosa attenzione. Lesse ogni riga fino a notte fonda e volle poi documentarsi su Chagall, poiché la copertina del libro era un perché della sua piana, serena accettazione della gravidanza. L'ironia del pittore l'aveva conquistata e proprio il sogno stravagante di una donna incinta senza uomo faceva parte del quadro, come aveva visto asini, angeli e teste staccate dai corpi volanti, leggeri per l'aria. Dunque, il padre di questo nuovo figlio sarebbe stato proprio lui, Chagall. E al pensiero, all'intuito estemporaneo che avrebbe avuto un maschio, lo chiamò Jamar, come l'autore russo e poi francese di adozione. Non so se l'avete presente questa figura, che è nella copertina del libro. Se non che io l'ho mandato alla casa editrice, invece loro hanno preferito, sai come fanno le case editrici? Hanno preferito metterci quella... questa immagine. Che riguarda un po' più la penia, la miseria da cui è partita, no? E, ok, bene. Se ne abbiamo abbastanza possiamo anche andare via. Insomma, questa problematica sociale che ti caratterizza, io penso che trovi una migliore espressione nella prosa che nella poesia. Ecco, vero? Sì. Perché tu eri sempre stato contrario alla poesia idillica che si oblia nel paesaggio, ma che in fondo non comunica nessun messaggio. La poesia sociale è molto difficile dopo Brecht, vero, a farla. E rischia di essere oratoria molto spesso e quindi manca di quella capacità di captazione che sarebbe necessaria. Mentre la prosa, nel suo metro più disteso, offre la possibilità di esprimere meglio tutti quei concetti che tu hai maturato e vissuto non solo come educatore ma anche come direttore di questo centro sociale Mesocos, per cui hai avuto occasione di vedere tanti casi umani di ragazzi madre via questo passo e conoscere a fondo la società con tutti i suoi problemi, con tutte le sue angosce, e a questa tua esperienza diretta, vissuta, personale hai dato un'espressione veramente felice e coinvolgente nei tuoi romanzi. Però, come dico, come la tua poesia era poesia di pensiero, così anche nel racconto, nella narrazione, c'è sempre un'idea che collega le varie esperienze e c'è sempre l'intenzione di comunicare un messaggio, in modo che la poesia sia nello stesso, e la prosa sia nello stesso tempo educativa, no? Quindi quel confronto, direi, già tra espressione poetica e messaggio, ovvero, che era tipico di Brecht. No? La poesia deve anche educare, e difatti Orazio diceva, no, aut delettare, o prodesse poeti, eccetera, e i poeti o dilettano o istruiscono moralmente. Tu hai scelto soprattutto la seconda via, quello di istruire moralmente e socialmente attraverso la prosa. E quindi complimenti per tutto quello che hai prodotto da quando sei andato in pensione, no? E nella quiete di Iesi, regalandoci tutti questi libri. Ok. Sì. ringrazio proprio perché no, mi hai fatto una sorpresa. Sì, non avevo intenzione, io non sapevo dove ti presentare, ho improvvisato. Però l'hai fatto e egregiamente. E sono proprio soddisfatto. Ok. Vuoi bere un po' d'acqua?